L'altro ieri sera ero arrivato a Urbino e la prima cosa che ho fatto è stato cercare l'albergo dove altri aveva pensato a destinarmi. Lo trovo facilmente in pieno centro e mi rendo subito conto come dietro le mura antiche tipiche della città, dentro questo albergo ci fosse stato allestito il meglio della tecnologia contemporanea, tutto dall'ascensore alla tesserina apricamera, dai reiterati avvisi di divieto di fumo in ogni dove, alle istruzioni per la connessione ad internet, tutto sapeva di nuovo, di lustro, di fredda glaciale modernità. Appena in camera ho un'urgenza, telefonare a Milano, telefonare ad Anna per dirle che sono vivo, che qui tutto va bene, per sentire se là tutto va bene, per sentire la sua voce. Sul tavolo ergonomico una lampada scaturita dalla logica metallica di un designer nato dopo il 1990 illumina un telefono dalla superba tastiera. Oltre ai tasti delle 10 cifre, ne conto altri 12 con scritte in inglese che non capisco, ma so che di solito in questi casi per telefonare fuori si fa lo 0 e poi si digita il numero. Non lì, me ne accorgo subito. Provo allora con il numero composto direttamente. Neanche questo va bene. E provo, con pazienza, uno per uno tutti gli altri tasti. Niente da fare. Mi viene in mente che potrei chiedere aiuto alla reception e faccio il 9. Di solito si fa il 9. Lì no. Sto per decidere di scendere giù di persona e faccio per posare la cornetta quando ne sento uscire una voce. Non è la voce di Anna. Chiedo chi è e mi si dice che è la reception. Per qualche misteriosa ragione sono riuscito a evocarla. Le pongo il mio problema, le dico mi scusi, sono un inetto, non riesco a far funzionare il telefono, può dirmi per favore quale tasto devo schiacciare per telefonare a casa? Oh, fa lei, nessun tasto signore, al telefono è stata da tempo tolta la funzione di telefonare, questo telefono serve solo per comunicazioni interne. Capisco. Non le sto a spiegare che il prefisso tele, che vuol dire a distanza, è dunque ormai inutile e contraddittorio. Non le sto a spiegare che ormai quello è un fono, semmai, ma non un telefono. Capisco che per riuscire a telefonare ad Anna, uno come me che non usa telefoni cellulari deve trovare un'altra soluzione. E meno trovo questa soluzione, più disperata e più urgente si fa la mia ricerca. A Urbino c'ero per un convegno. Ero stato invitato a tenere una relazione sull'atteggiamento ludico nell'allenamento e nella pratica del gioco del calcio. Un atteggiamento che, diventando il calcio sempre meno sport e sempre più spettacolo, diciamo che va sparendo. Ho preso le mosse dalla distinzione tra gioco e lavoro. In quest'ultimo, nonostante le assurde e ipocrite insegne dei vari campi di concentramento tedeschi, no? Il lavoro rende liberi, Arbeit macht frei, dal titolo di un'opera dello scrittore ottocentesco Lawrence Diefenbach, e nel lavoro, dicevo, le valorizzazioni negative hanno sempre prevalso sulle positive. La ripetizione delle operazioni, così ben esemplificata da un Charlie Chaplin nei tempi moderni, no? Quel film del 36, il fatto che queste operazioni siano parcellizzate e dunque si crei una interdipendenza in virtù della quale se uno solo non compie la sua operazione, tutta la catena di montaggio si ferma e il prodotto non viene ultimato. E ecco, soprattutto il fatto che il risultato non appartenga a chi l'ha prodotto, che gli sia alienato fisicamente e mentalmente, diciamo che caratterizzano in negativo il lavoro, lo rendono frustrante, una maledizione che l'umanità sotto il giogo del capitalismo si porta appresso. Se a ciò Se a ciò si aggiunge che questo prodotto viene immesso in un mercato dove l'unica regola che conta è quella del pesce grande che mangia il pesce piccolo, dove il premio finale, l'accumulo, il capitalone, viene riconosciuto soltanto a chi ha lasciato alle proprie spalle il maggior numero di vittime, si capisce come lo sport, dove almeno in teoria la concorrenza deve essere praticata nel rispetto delle regole, si capisce come allo sport qualcuno possa aver guardato come ad un'isola felice che per certi versi, diciamo, si contrappone al mondo della produzione. Al gioco di solito vengono assegnati valori positivi come la creatività, la relativa indipendenza del giocatore, che infatti notare può anche giocare da solo e divertirsi, e infine, ecco, proprio al contrario di quel che accade per il lavoro, l'appartenenza del risultato al giocatore che l'ha prodotto. Si tratta di operazioni mentali differenti dalle quali dipende anche in buona parte il nostro umore. Chi riesce a categorizzare una serie di attività come gioco ne caverà piacere e sentirà poco o nulla la fatica. Chi categorizzerà la stessa attività come lavoro ne caverà frustrazione, noia e per l'appunto fatica. Su per giù al convegno ho spiegato cose del genere. Ho anche detto che tuttavia nel calcio la competitività è ineliminabile e doppia. Una squadra cerca di battere l'altra, ma anche all'interno della stessa squadra, sia quella dell'oratorio sia quella del campionato di Serie A, c'è competizione tra i giocatori, tra chi gioca e chi va in panchina, tra chi gioca sempre e chi gioca di meno, tra chi ha già raggiunto determinati standard di capacità e chi non ancora. Pertanto non è sostituendo un atteggiamento con l'altro, traducendo tutto in termini di gioco, che si possono sanare le cose. Il ragazzino che va a scuola di calcio vuole che gli sia insegnato il meglio e desidera ottimizzare la propria tecnica di gioco prima possibile. Occorre allora saper dosare le cose, rendere complementari l'atteggiamento ludico con quello lavorativo, alternare il gioco con la ripetizione che caratterizza l'addestramento, possibilmente trasformare in gioco anche la ripetizione stessa. Non riesco a metterla in termini di gioco e non posso considerarlo di certo un lavoro normale. Il governo delle proprie categorie è un'arte complessa e destinata per lo più al fallimento. La ricerca di un modo per telefonare a Danna è una sorta di ossessiva missione salvifica, un lavoro di ordine superiore. Senza non riuscirei ad andare a dormire, penserei alla sua inquietudine nel non sentirmi e rimarrei inquieto tutta la notte. Esco. Mi aggiro disperato per le buie strade di Urbino. È una città universitaria questa, il che vuol dire che l'intera sua popolazione la notte si trova in un unico posto, tutti con la regolamentare bottiglia di birra in mano, che credo costituisca una sorta di segno di riconoscimento della gioventù studiosa. Fuori da quell'unico posto è silenzio, buio, gatti famelici pullulanti. Io poi ci vedo sempre meno e l'affanno che ho nel cuore non mi facilita le cose. Fatico anche perché a Urbino una strada o è in discesa o è in salita, e se per caso è per scappestrataggine si sceglie la discesa, questa si trasforma subito, immediatamente dopo, in salita. Fatico e ho il cuore in gola, ma ad una svolta che mi offre un posto ancor più buio di quello che sto lasciando, un altro senso, non la vista, un altro senso mi comunica qualcosa. Sento un forte odore di urina. Di urina dannata, urine selezionate ad alta gradazione, decantate in botti di rovere, non so, ma diversamente da quel che avrebbe fatto chiunque altro. Invece di fare immediato dietro fronte, io mi son detto: ragiona, e sono andato avanti. Ed eccolo lì, nel tanfo stagnante di una notte senza luna, l'ultimo residuato di telefono pubblico della città di Urbino. Eccolo lì, pronto ad inghiottire la mia tessera e a concedermi la meritata serenità. Inserisco e capita quel che deve capitare, che la tessera mi viene risputata fuori e una voce mi dice che è scaduta, perché le tessere telefoniche, per chi non lo sapesse, scadono come il latte e le uova, credo per il nostro bene, affinché la parola deteriorata nel frigo della nostra mente usata dopo la scadenza non ci faccia male. Per il momento, dunque, rinuncio alla telefonata e mi tengo l'angoscia nel cuore, ma ecco, per trasformare nel sorriso di un attimo la smorfia della sofferenza, decido di raccontarla. Mi dicono che domenica scorsa, approfittando della mia assenza, Raccame vi ha propinato, oltre alle sue riflessioni, una mia vecchia poesia. E la cosa può avervi stupito, ma spero non adontato. Al massimo può avervi indotto in una vaga sensazione di disagio, come quando si vede qualcuno fare una cosa vagamente ridicola e disdicevole e ce se ne dispiace per lui. Scoprire che un vecchio signore pedante cede ogni tanto ai richiami delle muse, in effetti può ingenerare qualche perplessità. Naturalmente non vi metterò in ulteriore imbarazzo chiedendovi se quei versi vi sono piaciuti. E so da me che i giudizi forniti su richiesta dell'autore non sono mai del tutto sinceri, e poi nel particolarissimo campo della poesia i criteri di cui si dispone per giudicare sono talmente vaghi da escludere quasi delle valutazioni attendibili. È difficile che posto di fronte a dei versi contemporanei, dico, è richiesto di valutarlo in sé, prescindendo cioè dal loro messaggio ideologico, da quello che di solito si definisce il contenuto, escludo che il critico non professionista vada oltre un mi piace o un non mi piace. I più scafati forse si lasceranno sfuggire un interessante e vi si fermeranno nella speranza che nessuno sia tanto indiscreto da indagare sulle motivazioni del loro interesse. È strano però. Se la poesia è un discorso in versi, articolato cioè in spezzoni retti da certe regole date e organizzati secondo un modello ripetibile, il giudizio iniziale dovrebbe riguardare ovviamente la capacità o l'incapacità dell'autore di comporli. In poesia si può dire praticamente di tutto, ma bisogna farlo secondo una certa normativa. Nei 40 secoli circa in cui si esaurisce la storia letteraria dell'umanità, i poeti sono sempre stati quelli capaci di contare le sillabe, di alternare le brevi e le lunghe, di far cadere l'accento in questa o quella posizione, di scegliere le rime. In realtà, decidere di comporre in poesia e non in prosa significa decidere di complicarsi notevolmente la vita. E il risultato comporta certi precisi vantaggi, o almeno li comportava una volta, secoli fa, quando permetteva di comporre, conservare e diffondere dei testi senza ricorrere a una tecnologia costosa e poco diffusa come quella della scrittura, ma richiede una perizia tecnica che non a tutti è concessa. Da quando poi la scrittura non è più l'esclusiva di un ceto specializzato, ma è entrata nel patrimonio medio delle persone anche mediocremente colte, la difficoltà di scrivere versi è restata come fine a se stessa e su di essa si sono a lungo misurate le capacità degli autori. Non tutti nei secoli sono stati concordi sull'aspetto puramente tecnico di questa capacità. Alcuni, da Platone in giù, hanno preferito associarla a una sorta di dono divino, un'ispirazione soprannaturale, per cui, come si legge nello Ione, alata cosa il poeta, è sacra e quasi divina. Ma questa affascinante complicazione non è assolutamente necessaria. Si possono benissimo scrivere dei versi senza sentirsi in alcun modo né alati né divini. A me, vi assicuro, non è mai capitato. Il problema, come in tutte le attività umane, è quello di applicare delle competenze acquisite. E sì, certo, colui che cui tale acquisizione per un motivo o per l'altro non è costata troppa fatica potrà parlarne come di un dono o di un'ispirazione, ma si tratterà comunque di una metafora. Oggi Oggi che la diffusione del verso libero ha confinato nel dimenticatoio i problemi e le difficoltà della versificazione, liberando gli aspiranti poeti dalla necessità di fare i conti con sillabi, accenti, rime e compagnia bella, il problema della competenza del poeta, del giudizio che si può esprimere su di lui, si pone in tutt'altri termini. Lo schema in cui organizzare il discorso non ti è più fornito dalla tradizione. Devi trovartelo tu, e deve essere, non si scappa, uno schema poetico. Ma trovare il senso di questo aggettivo non è così facile, perché la storia della letteratura lo lega appunto a una competenza tecnica di cui non hai più bisogno, lasciandoti come unica alternativa quella di dichiararti divinamente ispirato, che è una pretesa di fronte alla quale molti comprensibilmente riluttano. Il risultato è che le regole te le fai due, le applichi nella misura in cui trovi qualcuno che te le lascia applicare, e senza sottoporre questa specie di patto due a nessuna verifica superiore. Oggi, in realtà, è poesia qualsiasi cosa che l'autore decide di definire per tale. Non è più necessario adottare uno speciale linguaggio, non si è più legati a una particolare tematica, basta saper segnalare al lettore che il testo che gli si propone aspira alla dignità del brano poetico, il che a limite si può fare limitandosi ad andare a capo più spesso di quando si usi di fare nei brani di prosa, perché esso sia automaticamente investito di quel valore. Scrivere poesia, da impresa difficile e faticosa, perché ce ne volevano di sforzi per confezionare un sonetto appena passabile, per non dire di altre forme ancora più raffinate e delusive, oggi è diventata la cosa più facile del mondo. Ci si possono provare tutti, e tutti infatti ci si provano, sin dalla prima adolescenza. Quanti continuano fino all'età matura o addirittura fino ai limiti della vecchiaia dimostrano un'ostinazione della quale in linea di massima dovrebbero vergognarsi. Un poco di fatto me ne vergogno anch'io. Se nonostante tutto mi azzardo ancora in questa disdicevole pratica, è perché credo che a certe riflessioni cui non si addice la forma del saggio o quella della narrazione, giovi comunque l'essere investite di quella definizione. È come se sperassi che le mie parole resti in qualche modo attaccato un po' dell'icasticità e della dignità che la storia della letteratura alla poesia tradizionalmente riconosce. Mi rendo conto che è una bella pretesa, e non priva di una sfumatura parassitaria, ma spero nella vostra comprensione. In fondo, scrivere poesie è un'attività piuttosto innocua. Alata cosa il poeta, soprattutto perché di solito non dà fastidio a nessuno. Un colpo di fortuna mi ha poi permesso di effettuare la telefonata salvifica. Sempre più disperato, in cerca di un tabaccaio aperto dove poter comprare una nuova tessera telefonica, nella nera notte urbinate mi sono sentito chiamare. Un'anima buona con la vista di un'aquila mi aveva riconosciuto, e dopo i primi saluti festosi mi è sembrato ovvio chiedere: mi scusi, può prestarmi un attimo il suo telefonino?